Acabada è furialità. Puntane dentro terra bombanda in ogni vita. Acabada è spesalità. Puntane dentro terra vero underground Sardinia. Acabada è furialità. Puntane dentro terra bombanda in ogni vita. Acabada è spesalità. Puntane dentro terra vero underground Sardinia. Scrivi ma non fai testo, quindi lascia stare. Fai rap e prende male, peggio del tuo cellulare. Farei strada nella vita come tua madre, che è una vita che si chiede chi sia tuo padre. Il suono arriva diretto dal Campidano. Tu fai musica diretto, magari poi Campidano. Sei troppo figo nel sito tu quando chatti, ma a conti fatti pochi fatti e stai tra i Batman. Fai mille rime ma nessuno sa quello che dici. Hai fatto un demo e non l'ascoltano neanche i tuoi amici. L'ultima volta che il tuo disco ha spaccato è quando l'hanno lanciato dal balcone sul prato. Quindi rifletti su tutto quello che inventi. E come diceva Steph, mo è meglio che scendi. Quindi è il caso che smetti e che ti riprendi. Tanto anche se ci tenti, fra noi non ci riprendi. Acabada è furialità. Puntane dentro terra bombanda in ogni vita. Acabada è spesalità. Puntane dentro terra vero underground Sardinia. Acabada è furialità. Puntane dentro terra bombanda in ogni vita. Acabada è spesalità. Puntane dentro terra vero underground Sardinia. Minca troppi caghetti, rime solo di eti. Ora cagliare in bocca, prima mani su non sti concetti. A noi non ci diverti, è meglio se ti ci metti. Se scasso per se non la metti, smetti. Sono tutti rapper con uno space. Basta un video su YouTube e la merda la mando in play. QG, fossi in testa, stare per i cazzi miei. Con una clica di scemo e la finta coppia di Lil Wayne. La differenza è già in partenza nel suono. Già 10 anni fa, tipo un Fabi, Page e Crono. Qua tu sa massi, già sai chi sono. I rapper che ti mandano a casa col microfono. E spesa rinda caccia sti baghe e combatti. Tocca a una cosa furia rida da una batti. Te batti impatti, tu sgobba a starti. Sander gram de Campidano, noi sti cose batti. Acabada è furia rida. Puntane dentro terra bombanda in ogni vita. Acabada è spesa rida. Puntane dentro terra vero underground Sardinia. Acabada è furia rida. Puntane dentro terra bombanda in ogni vita. Acabada è spesa rida. Puntane dentro terra vero underground Sardinia. A casa tranquillo che ando giro in vita. Tu fai su sonai su stili de pita. Tu scidi pure uoga andu pain in vita. La stasi passai de noi e boga ditta. A ti che t'hai un rapper ce vai all'estro. A pica i gustu di nai che insaldonai arresto. A pizzo sa su pollo de pistessi onestu. Po tu rima sa che infrisca anta che ben tu estu. Con stesso cantori e tira da chi trattori. Canto sono su no so zia da su buttitori. Fa dei brudello cui mouse a tasa. Genti fatti ha fatto con cam a casa. Acabada e furia rida. Puntane dentro terra bombanda in ogni vita. Acabada è spesa rida. Puntane dentro terra vero underground Sardinia. Acabada è furia rida. Puntane dentro terra bombanda in ogni vita. Acabada è spesa rida. Puntane dentro terra vero underground Sardinia. Enza what? E mica adessi sempre di Aici, no? Ci si intanto spostai con Cadici, ci si intanto avvocai di noi. E Gesù tu santa la sei in pace, scalnoi si mi d'augure. Oh no, prima o poi la succede. Boh. Entro terra, su water.